Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo prontissimi per il soundcheck. Siete collegati con il Groove Master Studio per l'appuntamento numero 230 della prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera anche al nostro comunicatore multimediale Francesco Tromba. Ciao a tutti. Ti vedo particolarmente eccitato perché più tardi, nella seconda parte, dopo le news delle 20, ci collegheremo con Londra, che è una delle tue città preferite, per farci raccontare dal nostro inviato speciale Davide Shorty Shortino che cosa succede da quelle parti, musicalmente parlando, in questo periodo. Sì, perché dal punto di vista musicale sembra che proprio tutto il talento si sia spostato a Londra. Infatti se ne sono accorti molti, anche Mary J. Blige è andata a registrare lì a Londra, quindi evidentemente si sente anche nell'ambiente qualcosa di particolare. Beh, da sempre l'Inghilterra, e quindi il Regno Unito, Londra in modo particolare, propone quelle che una volta venivano definite le nuove tendenze. Sì, è una città che fa tendenza e ha fatto tendenza sempre in tutti gli ambiti, anche nella moda, nel costume, nella società. E quindi, per saperne di più sulla scena musicale londinese di oggi, ecco che arriverà via Skype il nostro Davide Shorty Shortino, che poi tra l'altro è palermitano ma è anche un bravissimo musicista che si è laureato a Londra frequentando una bellissima scuola. Cercheremo di parlare un po' di vari argomenti con lui e di farci raccontare la bellezza di questa città che musicalmente continua a spingere l'acceleratore sulle novità. Sì, ma magari veniamo adesso all'attualità, a quello che suoneremo adesso, no? Beh, sì, siamo pronti, no? Sì, questo tanto per anticipare che cosa succederà nella puntata. Ti dispiace? No, no, per niente. Bene, allora io direi di andare subito con il repertorio in italiano, visto che sei il responsabile. Vorrei proprio sapere con che cosa vogliamo dare il via all'appuntamento di oggi. Iniziamo con Priscilla Bei, che è con una... Chi? Priscilla Bei. È un nome quasi da fotomodella. Sì, è più o meno credo la mia età. Sì? Sì, siamo coetanei. L'hai scelta perché è carina, come fai tu spesso? No, non per questo, perché prima ho ascoltato la musica, poi sono anche andato a vedere delle immagini per crearmi appunto anche e un'idea. E quindi 2 + 2? Fa 4, quindi anche carina. Sì, avrà talento e anche carina. Mi dispiace, ma io non conosco Priscilla Bei personalmente e quindi sono molto curioso di apprezzarne il talento. Sì, è romana, nata a Roma appunto, si è formata nella scuola musicale di Testaccio, ha una formazione principalmente jazz, tanto che ha studiato con Susanna Stivali e anche con Elisabetta Antonini. Che sono mie amiche, le saluto. Sì, è... In realtà questo disco, cioè, che è un EP, si vede che c'è un fondo jazz, però è anche un cantautorato abbastanza simpatico. Sì, e musicalmente che cosa ci fa ascoltare Priscilla Bei? Questo pezzo che andiamo ad ascoltare ha delle sonorità brasiliane, anche perché scelto perché è in linea con quello che poi suoneremo dopo. Ah sì? Sì. Sai già cosa suoneremo sì, dopo? Sì, vedo la scaletta. Ti vedo preparato, ti vedo grintoso oggi, mio caro Francesco Tromba. Sì, grintosissimo, dai. Allora, diamo il via alla puntata del nostro soundcheck assaggiando per la prima volta qui su questi schermi la voce e la composizione di questa giovane artista romana chiamata Priscilla Bei. Il brano si intitola, se non erro, Samba di città. Esatto, sentiamo. Roma, perdona se chiedo indietro pace per carità. Come ci raccontava il nostro Francesco Tromba, la brava Priscilla Bei si è formata musicalmente nella Scuola Popolare di Musica del Testaccio a Roma e naturalmente è un'appassionata di tutto ciò che è Brasile. E da sempre il Brasile è molto presente nelle strutture musicali degli artisti italiani, tant'è vero che uno dei miei cantanti preferiti, un bravissimo compositore, ha sfornato da pochissimo un album che ha molto del brasiliano. Eh sì, ecco, nel suo sangue ormai il Brasile, si tratta di Gio Barbieri. Ah, quanto mi piace Gio Barbieri, anzi io faccio un appello, Gio, per favore fatti sentire e vieni a trovarci presto e magari portati pure la tua chitarra, perché quella che ho io qui nello studio non è un granché e tu che sei un grande musicista hai bisogno di uno strumento affidabile, quindi portati il tuo e magari ce la suoni e ce la canti dal vivo qui al Soundcheck di Radio 24, quindi io l'appello e l'invito a Gio Barbieri l'ho fatto. Bravo. Grazie. Anche perché questo disco merita parecchio, a me è piaciuto un bel po'. Allora, visto che tu sei il comunicatore responsabile del repertorio in italiano, presentaci Gio Barbieri e anche questa nuova produzione. Sì, allora, il disco è uscito da poco, da neanche un mese, si intitola Cosmonauta d'appartamento, è molto ispirato anche alla letteratura, infatti ci sono diversi titoli che hanno nomi di romanzi o citazioni di romanzi, poesie, qualsiasi cosa. Quindi lui vive in assenza di gravità nelle sue stanze. Sì, diciamo che lui ci trascina un po' nel suo mondo, ascoltando questo disco si ha la sensazione di essere proprio in un mondo parallelo, che è quello di Gio Barbieri. Che è quello di Gio Barbieri, bravissimo musicista, ottimo chitarrista e anche un cantante affidabile. La cosa che mi impressiona di più è che riesce comunque a parlare di argomenti in realtà molto tristi, però riesce a farlo sempre con il sorriso sulle labbra, anche perché ad esempio partendo dalla canzone che andremo a suonare che si intitola Chiedi alla polvere, che è anche il mio romanzo di John Fante preferito in assoluto, il primo verso è tristissimo, però poi appunto parte una musica e un modo di raccontare la teatralità della vita, anche la tristezza che c'è nell'affrontare la vita in una maniera comunque molto allegra, sempre col sorriso sulle labbra. Allora, eccolo qui, Chiedi alla polvere dall'album Cosmonauta d'appartamento, bellissimo, la voce e il suono originale di Gio Barbieri al Soundcheck di Radio 24. È un dito nella piaga, questa dita che si piega, ma nella tasca alla fine non ci sta. E oltre ogni buona volontà resto solo. Soundcheck, il suono della musica. Tu sai, io so che dove andrai io andrò. Trema la voce, ti accorgi così, ti accorgi che il mondo è troppo per me, io scendo qui. Si intitola Cosmonauta d'appartamento, il nuovo album bellissimo del bravissimo Gio Barbieri che qui abbiamo apprezzato in questa composizione originale intitolata Tu sai, io so, con la partecipazione come special guest di Peppe Servillo. Sì, il brano è stato registrato immagino a Napoli, perché appunto leggendo la presentazione del disco di Gio Barbieri è stato registrato questo disco fra Napoli, Rio de Janeiro, Parigi, New York, quindi il connubio con Peppe Servillo sicuramente sarà stato registrato a Napoli. Esprime anche molto teatralmente, oltre che grammaticalmente, le sensazioni appunto di questa storia abbastanza triste. Forse proprio per questo motivo ha coinvolto anche Peppe Servillo, che ha nella teatralità della sua voce uno dei punti di forza. Tra l'altro negli ultimi due anni ha fatto più teatro con il fratello che musica per esempio con gli Avion Travel. Sì, è una voce fantastica quella di Peppe Servillo, oltre a quella di Gio Barbieri. Insieme ci regalano appunto questo duetto che dal mio punto di vista è fantastico. Ecco, però Ferruccio Spinetti, che abbiamo avuto nostro ospite insieme a Petra Magoni, quindi il contrabbassista degli Avion Travel, ci ha accennato che probabilmente la band tornerà in azione presto. Speriamo, perché è una delle mie band italiane preferite. Sì, e poi ultimamente Peppe Servillo ha anche registrato un nuovo album con un trio con il quale ormai si accompagna accompagna da parecchio, ovvero Natalio Mangalavite al pianoforte e Cavia Girotto ai sassofoni, un album che noi riceveremo prestissimo e che presenteremo qui al Soundcheck. Quindi rivolgo l'invito anche a Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Cavia Girotto per venire qui da noi a presentarci questa nuova fatica discografica. Sì, io ho ascoltato anche qualcosa, se non sbaglio è dedicato tutto al calcio, a Obdulio Varela, quindi anche bellissimo. Beh, allora ne parleremo con loro quando arriveranno. Io direi però, per chiudere il capitolo Gio Barbieri, in attesa che possa venire qui da noi a parlare di questa nuova produzione, direi di chiudere proprio con il brano che dà il titolo a questa pubblicazione, Cosmonauta d'appartamento, che ha uno special guest. Sì, si tratta di Hamilton de Hollanda. Con il suo bandolim, noi lo abbiamo apprezzato in concerto dal vivo insieme a Stefano Bollani, questo campione di musica. Praticamente suona uno strumento che è una via di mezzo fra il banjo e il mandolino, quindi il bandolim, è uno specialista di questo strumento meraviglioso. Hamilton de Hollanda con Gio Barbieri in Cosmonauta d'appartamento. Ma tu guarda qui che casa, che cosa querida, che io pianga, che io rida, è il posto per me. Ma tu guarda qui che casa di noce moscata, accada quello che accada, io voglio tornare. Accada quello che accada, io voglio tornare. Accada quello che accada, io voglio tornare. E questo era proprio Cosmonauta d'appartamento, brano che dà il titolo all'ultima fatica di Gio Barbieri qui al Soundcheck di Radio 24. Potrei definire Gio Barbieri, come dicevo, un cantautore in assenza di gravità? Sì, come abbiamo detto prima, ci porta proprio nel suo mondo, nel mondo di Barbieri. Nel mondo di Barbieri, tu mi dicevi, ha scritto delle canzoni che comunque fanno pensare, con dei testi molto belli, anche belli, profondi. Sì, anche in realtà leggendoli senza la musica sono anche abbastanza tristi, diciamo la verità. Però il suo modo di proporre la musica te li fa affrontare forse con l'ironia che ci vuole. Sì, riesce a parlare di cose tristi con il sorriso sulle labbra, comunque facendoti anche divertire musicalmente parlando. Quindi perfetto per la tua rubrica dedicata al repertorio in italiano che vuole combattere il cantautorato triste, giusto? Sì, diciamo basta per sempre al cantautorato triste. Ecco, e fra le ragazze chi c'è che ti mette allegria? Serena Brancale. Lo sapevo. Perché ti mette allegria questa ragazza? Perché oltre ad essere una bravissima musicista e cantante, certo, è anche buona. Ecco, no, è anche bella da vedere sul palco. Bravo, sì. Tromba. E che sta combinando? Perché dopo Sanremo non abbiamo più avuto sue notizie. Io l'ho anche invitata più volte. Magari per venire qui a raccontarci questa esperienza sanremese, cosa che tu non farai mai. No. Però forse domani sera, dopo la lezione che ci farà il maestro Bob Stoloff, potrai capire qualcosa di più della vocalità e quindi, oltre a prendere lezioni di tromba, visto che porti questo nome, anche lezioni di canto. Ma la vedo difficile, sono abbastanza stonato. Quindi che faccio? Suono Serena Brancale? Sì, che ho letto di recente ha ringraziato pubblicamente Simona Ventura per averle detto di no a X Factor quando si era presentata ai provini. Certo, perché forse la carriera sarebbe stata un'altra. Sì, anche perché la maggior parte degli artisti che vanno a fare X Factor poi viene completamente ignorato dal discografico. Sono contento anche perché con una sola apparizione al Festival di Sanremo e con una canzone che poi non rappresenta il suo mondo sonoro, Serena ha avuto un'esposizione importante che le sta permettendo anche di attivare tutta una rete di concerti e quindi sarà protagonista la prossima estate con la sua band e il suo spettacolo in giro per l'Italia. Serena Brancale, che mettiamo? Il gusto delle cose? Sì, dai, mi piace. Il gusto delle cose, Serena Brancale al Soundcheck. C'è chi fa la mattina troppa colazione, chi si fa caffè latte attacca a parlare. Io non so se è meglio continuare a dormire, perché poi dopo un po' mi annoio a chiacchierare. Sound check. Il suono della musica. Musicalmente ci siamo spostati dal repertorio in italiano affidato a Francesco Tromba al sound del trombonista americano Jeff Bradshaw, appassionato di R&B pur provenendo dal jazz, che pubblica questo nuovo album intitolato Home, che viene segnalato con ben 5 stelle dal sito di riferimento soultracks.com. Jeff Bradshaw and Friends, questo è il titolo della pubblicazione, e infatti il nostro trombonista se la fa qui con Robert Glasper, Eric Robertson alla voce e la partecipazione di Tweet, per regalarci delle emozioni comunque un po' patinate per i miei gusti. Sì, però ha preso, diciamo, i primi amici che ha trovato, così, i beato primi lui. Vicini di casa. Beato lui, il primo vicino Robert Glasper subito nella produzione. Sì. Allora, siamo quasi pronti per chiudere la prima parte del soundcheck, ricordandovi che subito dopo l'informazione sarà con noi, collegato via Skype dal suo home studio di Londra, il giovane vocalist songwriter italiano ma residente a Londra, Davide Shorty Shortino, tra l'altro leader di una band chiamata Retrospective for Love. Di cosa parleremo con Davide Shortino? Parleremo sicuramente di tutta la scena londinese, quindi anche appunto di sia dei nuovi talenti sia comunque di quelli già affermati, come ad esempio Laura Mbula, che appunto negli ultimi 2 anni è riuscita a fare proprio un esplosione quasi planetaria. Eh sì, l'Inghilterra non è soltanto forte discograficamente, ma proprio la scena musicale underground spinge sempre tantissimo. Ci sono anche delle belle scuole di musica, quindi sarà interessante parlare con Davide, che si è trasferito lì per studiare musica e si è anche laureato, e ci faremo raccontare il suo percorso da musicista e studente di musica. E quindi interessante per i giovani musicisti che non sanno se spendere tutti quei soldi per andare a New York, o forse Londra, una meta un po' più vicina, può essere più adatta alle loro tasche. Diciamo che ha anche scelto una città difficile per quanto riguarda la musica, perché appunto tutti i nuovi talenti migliori sembrano usciti da Londra. Francesco Tromba, fare musica è difficile dappertutto, vabbè, in Italia, a Londra e a New York. No, sicuramente. Non ne parliamo di questo. Guarda. Però quando devi suonare in una città dove hai almeno 50-60 band che sono una più forte dell'altra, è ancora più difficile. Certo, il livello si alza, c'è molta più competizione, ma sempre bravo devi essere, perché pure da noi c'è gente bravissima che non viene fuori, perché, come vedi, programmi come il nostro non sono tanti. Vabbè, da noi proprio, cioè, noi siamo in un altro mondo. Beh, se lo dici te. Allora, chiudiamo la prima parte con Farnell Newton, ecco, dal trombonista Jeff Bradshaw al trombettista Farnell Newton, in qualche modo musicalmente si avvicinano perché provengono dal jazz ma amano l'R&B di oggi, e quindi Farnell Newton con il nuovo album invita il bravissimo Jarrod Lawson in Peace Love, e chiudiamo la prima parte del soundcheck. Been the same since the dawn of the dawn. Some of us had no sense of right and wrong, and power is sought to the level of the pawn. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Eccoci pronti per dare il via alla seconda parte del soundcheck di questa sera, sempre con Giorgio Telesforo e Francesco Tromba, e come annunciato, collegato con noi dal suo home studio londinese, il nostro inviato speciale da Londra, Davide Shorty Shortino. How are you doing, man? Yo, man. Ciao a tutti. Che bello sentirti, Davide. Come stai? Sto molto bene, grazie. Oh, allora... Una giornata grigia come al solito, è stata una giornata grigia a Londra. Come sempre a Londra. Allora, tu sei il nostro inviato speciale lì dalla City e oggi sei nostro ospite per raccontarci che cosa succede da quelle parti. Noi siamo molto attenti alle novità, rispettiamo il passato e nelle ultime settimane abbiamo trattato argomenti diversi che vanno dalla nuova scena newyorkese anche alle novità inglesi che rappresentano questo periodo. Intanto io voglio sapere da te da quanto tempo sei a Londra e perché sei a Londra, Davide. Ah, il perché, voglio cominciare col perché è anche abbastanza ovvio. Il perché è l'educazione musicale, perché volevo ricercare comunque per quello che è la musica un po' più complessa rispetto a quello che si sente in radio in Italia. Se vuoi conoscere, vuoi esporti a un certo tipo di livello, devi andare via. E per me Londra è stata la prima opzione perché era più vicina a casa e altrimenti sarei andato in America. Ecco, tu sei palermitano, a un certo punto da musicista hai pensato di dover fare una scelta. Che cosa? New York o Londra? E hai scelto Londra. Da quanto tempo sei a Londra? Sono cinque anni. E so che ti sei anche laureato ultimamente. Sì, mi sono laureato maggio scorso, per cui è quasi un anno praticamente. In cosa ti sei laureato? Contemporary Music Performance. Hai capito, tromba, hai capito? Performance. Quindi sei a tutti gli effetti, hai un attestato e ti puoi dichiarare tranquillamente un musicista contemporaneo. E la cosa che mi ha molto colpito, Davide, è anche la tesi che tu hai realizzato. Di che cosa tratta e come si intitola la tesi che hai presentato ai tuoi docenti? La tesi si intitola How would you quantize all of this? Why would you quantize all of this? Cioè, come tu puoi quantizzare... Perché vorresti quantizzare tutto questo? Ecco, che cosa significa quantizzare? Spieghiamolo. Quantizzare vuol dire mettere a tempo, tra virgolette, mettere in griglia un groove che è stato suonato umanamente, poi con un programma, con un software al computer o comunque con qualsiasi drum machine si può quantizzare e quindi metterlo precisamente a tempo sul beat. È stata apprezzata la tesi? La tesi è stata apprezzata, però ho avuto qualche divergenza col mio professore che è un po' un purista. Però più che è stata apprezzata, mi sono divertito un sacco a farlo perché ho imparato tanto. Esattamente di cosa trattava la tesi? La tesi parla di questo producer, diciamo che più che parla di questo producer, parte da questo producer di Detroit che è Jay Dilla, eccolo, che è un rivoluzionario non solo della musica hip hop, ma che ha rivoluzionato il tipo di groove, che ha rivoluzionato la musica moderna, che ecco, ha dato insomma, un sacco al tanto jazz, per raccontarlo, tanto per raccontarlo agli amici, Jay Dilla è l'uomo di riferimento per l'andazzo ritmico che utilizzano tutti oggi negli Stati Uniti e in giro per il mondo, a partire da D'Angelo, Robert Glasper e tutti gli altri. Senti, mio caro Davide, adesso fra un po' parleremo anche di te, perché tu fai il musicista e guidi una band molto carina lì a Londra che si chiama Retrospective for Love, giusto? That's right. E parlando di artisti londinesi, io direi di presentare ancora una volta il talento di questa bravissima compositrice, pianista, cantante che è Laura Mvula. Tu l'hai mai vista dal vivo? L'ho vista dal vivo all'Albert Hall. L'ho vista con la Metropole Orchestra. Ecco, è bravo. E noi infatti vogliamo suonare proprio il suo successo Green Garden nella versione con la meravigliosa orchestra Metropole Orchestra. Qui Laura Mvula al soundcheck di Radio 24. Take me outside, Sydney Green Garden. There's nobody out there, but it's okay now. In the sunlight, no money frame falls. Take me outside, Sydney Green Garden. And I'll fly on the wings of a butterfly. Soundcheck, il suono della musica. Turn it down. You anche i grandi artisti americani subiscono il fascino della city londinese. I suoni di quella bellissima città sono rientrati anche nella produzione di una star accreditata come Mary J. Blige, che proprio ultimamente ha sfornato London Session, e il brano era Therapy, che in qualche modo risente un po' del lavoro di Laura Mvula. Collegato con noi dal suo home studio londinese c'è Davide Shorty Shortino, musicista, hello, compositore, leader di Retrospective for Love, una delle band militanti nella city londinese, qui con noi proprio per raccontarci che cosa succede a Londra. Insomma, l'Inghilterra rappresenta da sempre, come dire, la nuova tendenza nella musica, a partire dai Beatles, i Rolling Stones, siamo passati per i Police, il suono di Sting, Imagination, fino all'Easy Jazz sfornato con la Talking Loud da Giles Peterson, con quindi Incognito, Brand New Heavies, Omar e tutti gli altri, per arrivare a un sound contemporaneo che mette insieme un po' tutti questi riferimenti musicali. La musica di oggi, quella che va di moda nei club underground londinesi, qual è, Davide? Ma va di moda un po' tutto, va di moda il soul, va di moda il funk, non c'è mai qualcosa che va prettamente di moda. La figata di Londra è che puoi trovare una diversità ovunque, e c'è sempre un rinnovamento, c'è sempre un'evoluzione, una voglia di scoprire e di contaminarsi. E questa è la cosa più bella. C'è un sacco di garage, di UK garage, che è molto contaminata dal soul, che è molto contaminata dal jazz. E Giles Peterson è una di quelle persone che spinge un sacco di sottogeneri, anche nella dubstep stessa, nel lato più oscuro e più soulful della dubstep. Ecco, Giles Peterson, che ora è diventato un producer di fama internazionale, per anni ha guidato programmi di successo in radio lì alla BBC, adesso sì. Ha i suoi canali radiofonici anche via internet e continua a proporre ottima musica, avendo sempre le orecchie attentissime, soprattutto ai nuovi talenti. Quanto è importante un personaggio come Giles Peterson lì in Inghilterra? Giles è sicuramente un pilastro, perché quando c'è qualcosa di nuovo lui è quasi sempre uno dei primi a portarla a Londra e a portarla negli UK, e quindi comunque stare lì attenti a quello che lui pubblica, a tutte le sue liste, a quello che suona, è sempre molto, è sicuramente un punto di riferimento. Io ti volevo fare una domanda, ti volevo chiedere per quale motivo, cioè sulla base di quale cognizione, di quale ragionamento hai scelto Londra rispetto agli Stati Uniti magari? Perché è più vicino a casa, perché sono 3 ore di volo invece di quante, tipo 8 ore di volo. Per il diretto, io non sono Roma per il diretto, non sono Palermo. Un fan dell'aereo. Okay. Penso che sia quello. Senti, Davide, quanto è stato difficile per te entrare nella scena musicale inglese, e quanto è difficile per un musicista giovane, per un nuovo talento, farsi conoscere lì a Londra? Allora, la scena inglese ha un double side, una, come si dice in Inghilterra, è una double-edged sword, una spada, un'arma a doppio taglio. Perché è molto aperta, ti accoglie, è molto aperta a persone che vengono dall'estero, specialmente nell'ambito jazz. Gli italiani fanno quasi la scena jazz a Londra, devo dire, sono più gli italiani che gli inglesi. Sì, Però per quanto riguarda il soul è sempre più difficile, perché nel momento in cui sei italiano devi avere una credibilità a livello sonoro, per cui se non hai un accento inglese, perché non sei inglese, devi crearti il tuo suono, perché l'accento troppo italiano non funziona. E questo è stato questa è stata la mia difficoltà, riuscire a trovare il mio suono e riuscire a studiare in modo tale da poter suonare in maniera più naturale possibile. Come funziona lo show business nei club? Il circuito di club è attivo a Londra? Il circuito di club è molto attivo. Per quanto riguarda la live music, ci sono un sacco di venue, un sacco di posti dove si suona dal vivo, dove comunque trovi un seguito di persone già lì, perché sanno che la musica è bella e vanno lì a sentirla. Poi il livello chiaramente è molto più alto rispetto al sud da cui provengo, per cui nel momento in cui esco e vado in un locale e so che in quel locale c'è della live music, so che comunque sto andando a sentire dei musicisti che hanno studiato e che stanno portando un prodotto di qualità. Allora, al di là di questo, poi in generale ci sono un sacco di soldi dietro il live business, i DJ e i club. La musica porta un sacco. Senti, allora prepara una lista di club di riferimento che possiamo consigliare agli appassionati di musica. In realtà che ce l'ho già. Ecco, l'ho già, allora già noi facciamo una pausa perché ascoltiamo musica e parlando quindi della old school, new school londinese, sempre del versante soul jazz, direi di ascoltare Omar. Come va Omar a Londra? È considerato? Io l'ho visto dal vivo ed è stata una bomba. Tra l'altro ha fatto anche questo pezzo che stiamo per suonare. Mi è piaciuto un sacco. Eccolo qui, Omar, the man, al soundcheck di Radio 24. Yeah, I like it. Ooh, I'm thinking about some things I've done when I was so home. Wow, some things that I should not have done, just trying to be the man. Sound check, il suono della musica. Spinning, I'm living, I'm having blood vision. I wonder if you could envision it. Sometimes you just need an escape. I understand, that's why you had to fly away. Spinning, I'm living, I'm having blood on blood vision. I know that's why you had to live. E questa è un'altra splendida produzione realizzata da un duo che va molto forte lì a Londra, ovvero Subtract, soprattutto producer, DJ, ma anche bassista, polistrumentista e la voce splendida di Sanfa. Il brano è Temporary View qui al Soundcheck di Radio 24 con nostro ospite collegato con noi dal suo home studio di Londra, Davide Shorty Shortino, che praticamente è diventato, mio caro Francesco, il nostro inviato speciale lì da Londra. Allora Davide, facciamo un salto, passiamo alle avventure contemporanee della scena londinese. Abbiamo parlato della old school, quella che ha visto protagonista Giles Peterson con le sue avventure discografiche con la Talking Loud fino agli ultimi esperimenti, ma a Londra c'è una scena anche elettronica, fammelo dire, molto attiva, quindi i disc jockey continuano a funzionare nei club londinesi. Sì, assolutamente, i disc jockey sono tantissimi in Europa generalmente, perché Londra, tu, quando pensi a Londra devi pensare più all'Europa, perché è un po' anche l'America stessa, è un centro in cui si racchiude una varietà di artisti che viene da tutte le parti del mondo. Parlando di Subtract, è uno che ha portato un nuovo suono, è un altro producer che ha delle sonorità anche abbastanza simili a James Blake. Non so se tu l'abbia mai sentito. Ma come no? Ma scusa, ma tu hai capito con chi stai parlando, Davide Shorty Shortino? Qui stiamo parlando chiaro, con dei campioni del mondo di novità, no? E di musica in generale. Abbiamo presentato il signor Blake, vincitore anche del Mercury Prize più volte, esatto, qui al Soundcheck. No, non mi permetto di. Ho fatto una gaffa. Figurati. Senti, ma allora tu come ti trovi a Londra? Sei preoccupato, no? Perché qui in Italia, tu lo sai, i musicisti fanno una gran fatica in questo momento a trovare ingaggi, e discograficamente soprattutto è molto complicata la situazione. Se non partecipi a X Factor è difficile trovare una casa discografica che possa credere nel tuo potenziale artistico. Ma la casa discografica al giorno d'oggi sono molte le persone che, specialmente nella musica più underground, dicono che la casa discografica non fa un bel nulla. Cioè, come siamo in un periodo dove tu puoi rilasciare, fare una release online tramite dei siti, tramite iTunes, puoi mettere la tua musica disponibile tramite SoundCloud, e sta a te come la promuovi e sta a te sapere come investire il tuo capitale sulla musica che hai. Chiaramente deve essere della musica che ha uno studio alle spalle. Però Londra, in questo, per quanto riguarda proprio le etichette in sé, ha una bella scena di etichette indipendenti. C'è un'etichetta come la True Tots, che è per l'appunto l'etichetta di Omar o Alice Russell. Poi c'è anche la BBE, che è l'etichetta per cui abbiamo appena firmato noi, che è anche l'etichetta che ha rilasciato The Shining di Jay Dilla e Welcome to Detroit. C'è una gran bella scena, però generalmente per la sopravvivenza del musicista è più che altro un rapporto col costo della vita, che è decisamente troppo alto. Io ho notato questa è la cosa di Londra che ti ammazza. Ho notato che hai anche Bandcamp, utilizzi Bandcamp con la tua band Retrospective, sì, sì, for Love. Volevo chiederti cosa ne pensi appunto di questo nuovo mezzo, in generale dei nuovi mezzi per distribuire la musica e anche per ascoltarla. Bandcamp è una piattaforma fantastica, dove puoi trovare veramente una varietà e un talento stratosferico. SoundCloud è un ottimo social network, però chiaramente, again, it's a double-edged sword, è un'arma a doppio taglio, perché il fatto che ci sia così tanta libertà ha portato anche il livello ad abbassarsi, magari anche dei ragazzini che non hanno uno studio alle spalle mettono la propria roba online e magari investono i propri soldi per poterla promuovere, e ci sono delle persone che magari non hanno dei prodotti chissà quale qualità che diventano strafamose perché fanno hanno una strategia di marketing efficace. Per cui alla fine questa cosa del social network è bella, sì, però non bisogna dimenticare che la musica è delle persone e che bisogna scambiarla dal vivo e bisogna andarla ad ascoltare dal vivo. Allora, siccome per noi diventa difficile venirti ad ascoltare dal vivo a Londra, vorrei far sentire il tuo suono. Tu mi hai detto che dopo 4 anni, 5 anni di permanenza a Londra hai dovuto cercare il tuo suono, il suono della voce, il suono della tua band. Eccola qui, Retrospective for Love, questo brano si intitola Leave Me Alone, in attesa quindi della pubblicazione di una nuova avventura discografica per Davide Shorty Shortino lì a Londra per noi, che aspettiamo naturalmente di presentarvi qui al soundcheck prossimamente. Eccolo qui, Leave Me Alone, Retrospective for Love, my brother. I'll never be the same, I'll never call you back, no. Don't ask me what I said, cause you know better than I know. No game, no time to change, is that a matter of what? No way, no pain, no shame to say, I'm cleaning every stain. You left me nothing, baby, now just fade away. You left me nothing, baby, now just stay away. Soundcheck, il suono della musica. What if my thoughts were all mine to care? Questa è un'altra giovanissima realtà londinese con la partecipazione della vocalist Frida Mariana. La band si chiama Native Dancer, che noi abbiamo presentato in anteprima qui al Soundcheck Until Frida Speaks, una band molto attiva in questo momento, molto richiesta. Perché? Perché sprigionano sul palco grandissimo talento, e questo ce lo può confermare anche Davide Shorty Shortino, collegato con noi da Londra. Yeah. È vero, come sono Native Dancer? I Native Dance spaccano tutte cose. Hanno aperto un concerto nostro e io ero lì e dicevo: ma perché loro stanno aprendo noi e non siamo noi che apriamo loro? Senti, mi fa impazzire perché hai acquisito una bella pronuncia anglo-giamaicana quando canti, invece quando parli in italiano sei proprio palermitano. Non riesco a get rid of the accent. Senti, avevamo anticipato ai nostri amici una bella lista di club interessanti, quindi velocemente perché abbiamo pochissimo tempo a nostra disposizione, e poi vorrei chiudere in bellezza raccontando il fenomeno Jacob Collier, fenomeno musicale ma anche fenomeno multimediale a questo punto, visto che è anche un bravissimo filmmaker. Allora, andiamo con la lista dei clubs da non perdere a Londra prossimamente. Vi consiglio vivamente di, se venite qui a Londra, di andare innanzitutto a Ronnie Scott's. Guardate, vabbè, quello è il jazz club storico. Quello che c'è è Ronnie Scott's, è assolutamente andare. Poi c'è il Jazz Café a Camden Town, che è un posto dove si può trovare dall'hip hop al jazz, al funk, al reggae, qualsiasi genere. Poi il martedì sera e il venerdì sera ci sono delle gem al Troy Bar. A Hoxton, che è meraviglioso. Una volta c'è stata anche Erika Badu a fare la jam il martedì. Pensate, bestiale. Senti, il cargo funziona ancora? Il cargo funziona ancora, ci sono ancora un sacco di belle serate. C'è la Scala a King's Cross e poi c'è il Vortex, che è un bar a Dalston dove fanno un sacco di buon jazz. Dove c'è anche un bar dove fanno la jam la domenica sera. Senti, e Giles Peterson dove bazzica? A Giles Peterson va un po' in giro, suona al Coco a Camden, poi a volte a East London, Red Gallery, sembra anche al cargo stesso. Allora Davide, per trovare informazioni sulla tua band via internet, che indirizzo possiamo consigliare? Retrospectiveforlove.com, quindi retrospective for love, per dirla all'italiana, .com. Poi abbiamo una pagina Facebook, una pagina SoundCloud, siamo su tutti i social network. Allora, chiudiamo questo appuntamento del nostro soundcheck ricordando che domani saremo di nuovo in onda nel doppio appuntamento della domenica, come sempre a partire dalle 15:30, la prima parte, e poi la seconda parte con un grandissimo ospite che è uno dei più importanti docenti di canto a livello internazionale di improvvisazione jazz, che è il maestro Bob Stoloff, tanti anni di insegnamento alla Berklee School of Music, che sarà qui con noi proprio per parlare di vocalità. Francesco Tromba? Sì, prima di salutarti io volevo farti una domanda. Hai per caso intenzione o idea di tornare in Italia oppure non ci pensi neanche lontanamente? Sono stato a Milano qualche giorno fa e per un attimo ho pensato: ma io potrei mai ritornare in Italia, per quanto Milano è considerato, diciamo, il posto più europeo. Dopo un minutino di riflessione mi sono risposto, ho detto no. non riuscirei a stare fuori well, non riuscirei a stare in un posto in Italia perché c'è troppa chiusura mentale ancora chiusura mentale. Bene, se lo dici tu Davide, allora senti, chiudiamo con Jacob Collier, vocalist, polistrumentista, ancora 21enne, da una famiglia di musicisti. Che cosa si dice di questo ragazzo a Londra? Lo si vede in giro per i club o no? Non l'ho mai visto in giro personalmente. Ho suonato con gli Snarky Puppy, ho saputo che ha suonato in giro con un sacco di gente. Tra l'altro frequentava la scuola di un mio amico e poi a un certo punto ho visto questo suo video, che è il pezzo che ci andiamo a sentire adesso, e sono rimasto sconvolto. Ho detto: questo qua è un mostro. Grazie a Davide Sciori Shortino, in bocca al lupo, salutaci anche la tua fidanzata Alba e ci sentiamo prestissimo, mi raccomando. Quando incontri Native Dancer e Frida in modo particolare, dai un abbraccio da parte nostra ai ragazzi. Senz'altro. Eccolo qui, Jacob Collier chiude il soundcheck con Close to You, la sua versione di un classico di Burt Bacharach. A tutti voi buona serata e buona musica da Giorgio Telesforo e da Francesco Tromba. Ciao Davide. Peace out. Ciao. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close.